che a Stefano la di pubblica ci avevo, quella per portare il pullman. K-K. E pensare che c'è gente che paga per prendersela con la patente, ui, paga un mese di una... Ehi, per prendersi quella patente ci vogliono 6.000 euro oggi, se non di più pure. 6.000 euro erano tanti anni fa. E che poi adesso con la legge nuova che è, ce la devi prendere una per volta, te. Non la puoi prendere come ho fatto io, dalla B direttamente alla D. No, non la puoi prendere più. Prima ti riprende la C, poi ti riprende la D, poi il CQC. Non è così, no. Oggi ci vogliono 6.000 euro a prendere una patente del genere. Vabbè, se non è di come ti immagini in casciatina, è normale, se la prendi tutta una volta paghi una volta e basta, invece se la prendi così ogni volta devi pagare. E allora? Io avevo fatto dalla B direttamente la D, mi avevo preso, però adesso non lo puoi più fare, prima devi prendere la C, poi la D e poi il CQC. Io ne avevo due di CQC perché c'avevo persone e cose, che avevo tutte io le patenti, mi mancava solo la E, quella per agganciare il rimorchio e basta. E se prendevo quella dovevo rifare il CQC perché ci doveva essere il CQC anche per quello, per la E. Capito? Ogni volta che cambiavi patente dovevi prendere il CQC nuovo, ogni volta era negato. A me si faceva lo sconto addirittura, mi dovevo fare un mese di scuola guida e più 350 euro dovevo pagare. Adesso non so se fanno anche l'esame. Boh, un casino, No, io sapevo che ci voleva anche l'esame, boh. Allora tu davi i soldi, lo facevo sotto il banco. No, io non facevo l'esame perché io avevo il KD, la mia era pubblica la patente, capito? E quindi mi davano il CQC, però dovevo fare un mese di frequentazione della scuola guida e più dovevo pagare 350 euro. La mia compagnia si non adattavo, io già me l'ho sfruttata la patente, ma per dire, cazzo, a uno che gli serve si la deve pagare, non venuto arrivare. Ogni 5 anni quando scade devi rinnovare il CQC e la patente. È un casino, sono spese, se non la utilizzi sì che ne usufruisci, va bene, per modo di dire, perché la patente non dovrebbe essere versati nessun soldo, è diritto di tutti prendersela. E chi la usa per lavoro specialmente non dovrebbe pagare nulla per fare queste cose, però qua siamo in Italia e si paga tutto. Avanti Antonio. E Antonio non c'è. E poi la patente pure dovevo rinnovare, era una 300, quindi noi erano più di 350, erano pure di 100 euro di pagare prima di rinnovare la patente, perché prima rinnovavo il CQC e poi la patente, perché erano andate diverse, no? Erano tutte uguali le date. Quindi cazzo, prima di cadere il CQC e ti lo dovevi rinnovare, se no non varia più la patente. Casino. E io ho sentito una cosa che speriamo che sia fake su internet, che hanno detto che praticamente adesso quando tu vai a rinnovare la patente, se hai problemi di cuore, di diabete, di questo o dell'altro, non ti danno più la patente, te la tolgono direttamente. Sì, lo so. Adesso sono più severi anche per la furia del sonno. Io l'ho rinnovata quando è 2 anni fa, mi pare. Io me l'avrebbero declassata a me, perché io avevo passato già le troppo 65 anni di inabilità nella patente manna. Capito? Io non li avevo ancora compiuti e me l'ho fatta declassare, però ho pagato mi sembra 50 euro in più. Fatti il conto. E se è così, io vabbè, l'ho rinnovata lo stesso 2 anni fa, la patente, però di cerchi adesso, se tu hai qualche malattia tipo sei cardiopatico, diabetico eccetera, dice che te la tolgo del tutto. Questo lo stava dicendo uno, adesso non so se ha detto cazzate o io mi auguro che sia un fake. E anche io penso che siano fake, perché secondo com'è non è che te la tolgono, ti danno quella per invalidi e vuole rinnovata ogni anno. Sai che rompimento di balle, e oltre ai soldi devi andare al residuo a fartela rinnovare. Hai capito com'è la situazione? E dalle 4 di mangiare non verrà niente a gogo. È un casino, Poi più di 15 persone non le pagano, le fanno entrare, quindi dopo il 15esimo te ne puoi anche andare, perché tanto non ti fanno entrare. Il medico ce n'è uno solo, una femmina, perché una volta sono andato lì per il porto d'armi io, per farmi il certificato medico. Purtroppo è un casotto, ti danno l'appuntamento, ti danno, anche pur banchi mi vivo l'appuntamento. Invece l'ultima volta me l'ha fatto quello della scuola guida, tanto è un poliziotto, quello lì, e me l'ha potuto fare. Capo, acciugavid. Antonio, ci sei? Antonio se n'è andato. Luca, finita di fare questo lavoro. O stai ancora lavorando? Sì, non risponde, no, le mani in pasta dappertutto a quello. Ci hanno lasciato soli da tari a futtidini. Meglio soli che male accompagnati. Poca gente, meglio festa. Eia. Questo che mi adesso sta scaldando questo apparecchio, sta andando bene, dai. Sta andando bene. Come scalda aumenta. E così è. Cosa ti volevo dire? Ah, lo sai perché non mi avevo fatto dare l'invalidità al 100% io? Perché me ne prendevano subito la patente. Me ne prendevano. Me l'ha detto l'amico mio maresciallo, quindi non sono fake quelle lì. Natali, ma lo vedono loro se dati il 100% lo stanno prendendo, mica lo chiedi tu. Sono loro che dopo che ti fanno la visita, loro verificano se sei in grado di continuare a lavorare o che cosa, ti danno la percentuale, te la danno loro, si riuniscono e ti danno la percentuale. Sì, altro che il 100% mi tocca a me, per come sono messo, figurati. Ma non ne ho fatto aggravamento proprio perché l'amico mio Giuseppe, il maresciallo, mi aveva detto guarda non te ne fare dare l'invalidità in più perché te ne pigliano subito la patente. Non credo che vai. E perché se sono andati tanto lontano non gliel'hanno presa a gufo gliel'hanno presa perché gli hanno dato il 100% e gliel'hanno preso la patente. Infatti mi ha comprato la macchina nuova, la sta guidando la figlia, l'accompagna lì da tutte le parti. Sì, visto. E infatti io non me l'ho fatta dare il 100% per quel motivo lì. Però se io gli porto tutti i fogli a vederla sui miladateni, ho avuto due operazioni, sono diventato diabetico, e io chi più ne ha più ne metta. Lo so, però non conviene, da una parte non conviene Natali, appunto, perché se ti danno il 100% ti rovinano a vivo. Poi a me la macchina mi serve, non posso camminare, cosa? A che punto sono arrivato? E a fare la spesa, tutto quanto, caricarti l'acqua che è pesante, tutta la roba che certo che serve. Io la uso per le cose necessarie, la macchina, sì, vado in giro qualche volta, ma di raro, se no la uso per le cose necessarie, andare a fare documentazione, andare in banca, fare questo, fare l'altro, e come ci vado? Se devo dover andare con il mezzo è un casino. Sì, infatti, ho camminato in un dramma, ma che io non posso camminare. Quindi se devo farmi la spesa devo avere per forza la macchina. Come faccio? Devo andare a pigliarmi il rugatoio da destuni, ma pigliarmi il rugatoio se ne me la ciuffa. Ciao, ma se devi andare lontano e caricare roba, come te la porti sopra le spalle? Guarda lì, sì che ce l'hai la macchina, non te ne rendi conto, ma quando ti manca, a voglia che te ne rendi conto. Sì, infatti, a Parmi per esempio è già andato i punti, fa andare a un gap. Come faccio senza macchina? Perché vai così lontano? Perché c'è una signora carissima e bella che mi fa le cose lì. Io vado da Chiara, io vado a due passi da casa, vado da Chiara e mi fa tutto quanto lo stesso anche lì. Lo so, ma io vado lì perché mi tratta bene, mi dà l'appuntamento, no? Vado al volo e mi vado in tutto. Poi c'è anche Graziano, il cugino di Liliana, quello che faceva finanziere, quello lì è in via Grazia d'Olenda, al CAF, che è andato dopo che io ero già da Chiara, se no sarei andato da lui. Però tante volte non mi piace nemmeno perché vedono le cose mie, se essendo pariti vanno a sapere le cose, a me non mi piace per quello anche. E va tu già. Mi piace più un estraneo che non sa niente, cosa e via. Quando è un parente poi magari parla, anche se non potrebbero dire nulla, capito? Però magari non lo fa per male. E dice prende tanto, capito? Magari di 10, compreso, fa vedere magari di 10 è meglio che ricosi in due, li sappi tu. Infatti. Ma la Chiara mi trovo bene, poi tu li guardi con l'altra la serranda. Io cazzo, quando gioco in macchina baito tutto, Non è la stessa dove andavi tu, Chiara. Sì, che lei, quando lei ce l'aveva in via Nurra prima, a fianco al dottore dove andavo io, dottor Nuvoli, e ce l'aveva lì, lei ce l'aveva dall'altra parte della strada, perché dottor Nuvoli era a sinistra e lei era a destra salendo. Già me lo ricordo, siamo andati anche insieme, Natalia, come te lo ricordi, ma io sì, mi ricordo sia dal dottore che da Chiara, siamo andati anche insieme, quindi già lo so. Già cosa hai visto? Sei da manteso da ragazzi di un computer, cazzo, ogni figura di palta, anche il colore avevi detto. Almeno sapeva che vedevo bene. Sì. Cos'è che ti aveva detto? Guardi che l'ho sentito quello che ha detto. Non me la mento mentre l'avevi fatto andare, ma cazzo. Mi ha sentito, cazzo, perché io lo stavo dicendo a te al baracchino, che era in macchina. Sì, ma già di quella la mano, già ci sta lo scherzo al coso, già di quella la mano, è una persona comune, dai. No, è toga Chiara, è che c'è troppo casino lì, se no sarei andato lì. Perché prima mi servivo da lei io, la verità, Solo che in Chile è tutto un macello. Invece questa me lo fa subito, mi dà l'appuntamento, va, boom, va. Ma chi? Se tu vuoi andare, ti vai a dare l'appuntamento, lo sai un dì? Al caffè che c'è in via Bugino. Telefoni lì, se vuoi ti do il numero di telefono, telefono e te lo fa subito, perché tu vai lì, c'è il patronato del caffè e ti va di tutto. Mia moglie è andata alla strada, l'ha già fatto, dice mia moglie, lo devi solo ritirare. E lì era più vicino a casa tua anche. No, io ho già l'appuntamento, la torre devo andare il 27, mi ha dato lungo l'appuntamento, però vabbè, non fa niente. Mi sono cambiato anche il coso dell'energia elettrica, mi sono messo Enel Energia. Sì, anche noi siamo da tanto tempo con Enel Energia, capito? Come Prissi, com'è? A noi ci va benissimo, ma arriva poco la bulletta. Anche a me. a me ultimamente, da quando non vede la, prima non arrivi a 200-220, adesso, da quando non c'è la, sto pagando un bel po'. Sei così già, però manco ti rimani duri di là invece di darle allene. Manco pare che da non consumava nulla, attaccava a piastra, attaccava il karaoke, cazzo, che era 2000 watt, di aerogrido che consumava. E lo sa lui, aerogrido, però che da non consumava. Però la moglie sta a buia, sta a rimia, due zenti rotti. E vabbè, adesso già pago di meno, pago 35, 50, dipende. E fa. A chi tu la femmina la devi ziccare, no? Gradita ospite, come ti dimmi sacchi, la manda a fanguala. Anzi, è possibile unione in casa sua. Sì, ma se la nonna se lo merita, nata lì, puoi anche ospitarla a casa, però quando non se lo meriteggio la fa da dimmi e via. E infatti fai bene. Cosa c'hai in chivi? La donna deve essere tranquilla, no, non che ti rompia le balle. Se trovi la persona come si deve, allora sì, ma se no non ne vale la pena, hai visto? Ti comporta spese, ti comporta di tutto. E rompimento di balle sicuramente. Infatti non deve essere un problema, deve essere un piacere. E infatti, se no che piacere è? Penso che regge io. Buonasera. Mi attore, e metto. Mi attore, mi dà così di cazzo, mi non parare ci manni, mi duburu. Cosa c'è Natali, cosa c'è? Dimmi, dimmi. E che dopo dici che non c'hai le orecchie grandi, tu pure, mi. Ora non penso che entrò da basso, che entrato. Io non ho gli orecchie grandi, ho acceso adesso e ho sentito a voi. Che stavo scherzando, mi bello bene. Cosa vuoi che vengo lì? Bene buru. Tanto è così. Oh, avanti già. È andato in bagno, è andato. Ah, avanti mi è andato Gianni. Boh. Ha detto che era andando in bagno. Ah, basta, basta. Non metto lingua. Pure se sarà buono, invece batte. La chiatta. Ci andiamo per andemmo. È vero, mi andemmo per proprio. Non se ne può più la vita. Vabbè Natali, cosa mi racconti? E cosa ti devo raccontare? Siamo come poveri vecchi, gatta, siamo da rotta mare. Capite, cosa ti devo raccontare? Sempre il solito tran tran. Sempre il solito tran tran. Se andava così, se non ti andava, c'è un bandiera. Oh, ia, ia. Ho acceso e mi ha chiamato Gianni. Prima ho fatto un paio di chiamate e non vedo nessuno. Da lui è entrato Manuele, è entrato Luca, Antonio, però ma non rispondi di più. E vuol dire che si sono ritirati. Cosa c'era? Era una sabassona, avanti chi voleva entrare. Ho detto invece che entra entra. La metropolitana, metropolitana. E dico, sei il solito tran tran, la solita metropolitana, Ma c'è un ma. Ogni tanto mi ravviglio, mi lascio una macchina bella borseggiata e mi vedo lo tran tran. Io la metropolitana, dico la vita, non l'ho mai presa, non mi sono mai seduto sulla metropolitana. Io sì. Ma qua a Sassari no. Anche io tante volte la prendo, quando mi devo scendere vicino all'ospedale, quando piglia pulizia la macchina in chivi. Allora lascio la macchina io e prendo la metropolitana. Però l'ho presa anche a Londra, la metropolitana, a Trinità di Nokia, che è troppo che è veloce. Ma come Londra è sotterranea, così? C'è in superficie sotterranea. Ma no, una no, che ne gioca, che vedi sotterraneo. E come Roma c'è la metropolitana, tu scendi giù, devi stare attento a chi sotto, ho visto una cosa, c'era una che chiedeva le elemosine, no? È passato questo e l'ha rubato tutto qua dalla scatola con i soldi dentro, se l'è scappato, nessuno è intervenuto, questo aiuto, aiuto, niente, nulla, non l'hanno fatto, non si è messo nessuno in mezzo. Sì, anche gli incontinenti, dimmi, non si buono nessuno. Casa Roma ho visto lo scippo, sempre la volta che sono andato, una delle volte che sono andato, tutte in una volta è successo, ho visto uno scippo, una donna anziana che ha spaccato il vetro della macchina e ha pizzicato lo stereo, una donna anziana lì, l'ha pizzicato lo stereo e se n'è andata, e quello lì l'ho visto alla stazione, e poi ho visto uno scippo, che hanno scippato una cinese a piedi, questi due, un ragazzo e una ragazza, ha attraversato la strada, il ragazzo gli ha rubato la borsetta, l'ha lanciata alla ragazza che era dell'altro marciapiede e sono scappati, però li hanno beccati, e quella cinese ha detto dai lasciateli stare, interessante Vittorio la borsetta, e li hanno beccati, la gente che c'era lì l'ha messo lo sgambetto, l'ha presa quella ragazza. Meno che pure su Zirendi roba roffia. Oggi su TikTok ho visto la sparatoria che c'è stata in via Turritana, ma non mi dico i peni paradumi. E alla finestra? Non lo so da dove hanno sparato, però ho visto, ho sentito i colpi, no? E le macchine della polizia c'erano. In via Turritana è successo. E io lo metto su internet che hanno sparato. E roba di droga deve essere sempre, cazzo, sì, quando ci sono quelli di colore lì passate casini anche voi, perché basta che lo si esce dalla portone e spara, cazzo, di bicicletta si sa con la bizzattina. Ehi, vabbè, qua no, dall'altra parte qua non c'è niente, i neri sono, e quelli che spacciano sono dall'altra parte, insomma. Ehi, ma perché quello negro che hanno picchiato, che è andato poi a sparare i nigeriani, quello che hanno picchiato in 12, non è successo vicino a casa tua, vicino al tabacchino? Qua sei successo in Civi, ma pure dai nomi, comunque dai, no, qua dove abito io non vi ne è. Gli spacciatori sono l'altra Bassi, la Bassi di Santo Tomaso. Stanno invadendo tutta la città vecchia di Sassari, tutta la zona vecchia la stanno invadendo loro, il corso, tutte quelle zone lì stanno invadendo tutte. Avanti Ito. Ah, guarda, io che succede di tutto, come se ne succede. A Londra di queste cose non è vero. Tenevano a furare la borsetta in luoghi dove non c'è polizia, dove non c'è nulla, c'è deserto. Lì te ne possono prendere, però dove c'è la stazione, ecco, ci sono sempre i poliziotti armati, ci sono. Quindi non succede mai nulla dentro la stazione. Io è una razza fea, gli nigeriani sono una razza fea. Sì che tu mi parli di senegalesi, i senegalesi sono bravi, ma i nigeriani sono arissi, buco di ghisi, pacari dai. Dalla faccia solo si vede la differenza. Oh yeah! Sì, sono prepotenti, sono tutti delinquenti, i femmini sono aghidibrisi e gli uomini sono tutti delinquenti, spacciatori, raffinatori, stesso che magnacci. Basta che non vogliono rubare i miei cazzo a casa mia, da voi, buone parole buone. Ah, chi su sì, Chi era che ha detto cosa che lo vengono a rubare il cazzo? Antonio. Eia, ha detto basta che non vengono a rubare la scatola a casa mia e tutto va bene. Ma senza, ti abbiamo chiamato Roma 30 volte. Come? Ti abbiamo chiamato Roma 30 volte e non usciri. Ti ho detto che stavo facendo bianco. Cava cava, mi è entrato anche Tore. Passa, un po' di Tore. Eia, buonasera. L'ho preso già, come te. Ma te vedi che verrà nigeriano, entra, che vuole accudire a tutti. Sì, da affiliato ti raccomandava bene in mezzo all'anchi e l'ha lasciato in terra. Se già va, va a fare una borsa con l'altro. Ha inviato già è fatto fare la grazia nel tutto, a Rodurone. Hai fatto bene. Se trova quello giusto, già buscalo. Solo che sono tutti quanti equalizzati, tu li curi uno e vieni in 50. Sì, infatti gli sono giunti, ce l'hanno inviato e se te l'hanno imbussato. Certo, ed è intervenuta la polizia perché lo traccio è filmato. Ha inviato se si era imbussato. La polizia ha filmato, a tutti quanti ha filmato. Oh, yeah. E da quando ci sono questi qui Sassari non è più una zona frequentabile, è una città, era così tranquilla come città Sassari, adesso da quando ci sono questi qua hanno portato droga, prostituzione, risse, sparature, di tutto. Qua sta proprio da venire un mattino che portano in campo. Comunque la colpa la dà chi affitta le case a questa gente qua, perché se non ci fosse state case da affittare non sarebbero stati qua. Invece siccome li prendono per il collo, li fanno pagare un bel soldi d'affitto, li affittano le case in nero, e tanto sono neri, quindi li affittano le case in nero. Non è che quello, no, già. Cari li mettono affitti che se ti figli non se lo possono manco permettere. Ma tanto loro cosa gliene frega? Li pacciano e quindi guadagnano forte. Quel carità qua. Lasciamo perdere, va. Sì, guadagnano, però mettono a repentaglio la vita anche degli altri, perché con questa gente qua non c'è da stare tranquilli. Magari stai passeggiando, la terra che vicino a casa no, ma magari tu stai andando a fare una commissione, sei in via Turritana, sei in Bassetti, dico di Bissolante, di Migliani. Non è che sia da stare tranquilli, no? Ma in genere non è che così, no? E diciamo, sani a chi deve ne colpire e a chi no. Non è che a te ti vanno a romperti le scatole. Loro se rompono le scatole si ammazzano tra di loro. Perché dicono che non la pagate e cosa. Allora ne trovi le conseguenze, ne paghi. Se non ripaghi, paghi le conseguenze. Tu hai mai sentito parlare tu di proiettili vaganti, quei proiettili che sono indirizzati a una persona, poi in rimbalzo prendono a te, cioè non è che è da escludere, è successo molte volte. Sì, vabbè, ma già mi danno i bene, non ti preoccupare, quando succedono i problemi. La gente non è tranquilla a Sassari Vecchio, se tu leggi giornali e cose, la gente non è più tranquilla, hanno paura, stendono la roba, gli rubano pantaloni, che se uno abita al primo piano, nelle zacche dei pantaloni, non possono manco stendere. Questo lo so, ma c'è così lega, ma c'è così le botte, guarda che non lo fanno in più. Fanno più le macchine. Io lì ho detto, se mi toccano che cosa, se mi rompo le scatole divento cattivo, ma erano bravi quelli che c'erano, il condominio, anche se erano quelli di su e quelli di giù, era via vai là, tutto il giorno, però non ti rompevano le scatole. E io, ti ho trovato quelli buoni, magari non erano nigeriani, sono stati senegalesi. Assolutamente no, nigeriani, ma erano tranquilli. E magari se ne trovano due su mille tranquilli, ma la razza nigeriana si sa che è così. Me l'hanno detto anche i senegalesi, quelli sono cattivi d'animo, ha detto che sono. Ah, erano bravi quelli che c'erano al condominio, l'unica cosa te l'ho detto. Quelli di su e quelli di giù. L'altro no, l'altro poverino andava a lavorare. Gli altri due che c'avevo vicino erano lavoratori, no, non mi guardia i cose. Quando mi guarda lontano, ciao, pure stamattina a me. Sì, sono quelli che magari lavorano anche, perché in mezzo alla mischia c'è sempre qualcuno che è in gamba. ma la maggior parte sono tutti russi, perché è reso tutto, non lo dico io, lo dicono i sondaggi, le cose che fanno. Comunque. Diciamo che siamo anche noi che li abbiamo accettati, perché se tu vai a Verona non vi ne è uno di chi si vede. Io sono andato a Verona, non ci sono né negri, non ci sono cinesi, non ci sono, ci sono solo gente che abita lì e basta. Hanno loro fanno le ronde punitive, la notte passano, controllano, fanno, e sulle ronde come facevano i militari per controllare se erano tutto a posto e i militari che uscivano eccetera, e così fanno loro. La Lega fa queste cose. Quando la roba contro la pulizia, guarda, il polinomio, che sono usciti di me. Notte e giorno sono gli altri, erano. Anche le cuture, le ampulle, mi fate non dire da cosa, da attore. Hanno cuture in morto, poi l'hanno cuture, sì o no che ce ne sono andate. Meglio no. A Eddie, perché stavano facendo i padroni. E comunque anche in Cazzatola avevano bruciato un negozio di cinesi, non so cosa hanno combinato, poi l'hanno bruciato, ora per roba di concorrenza, boh, non lo so, da quando c'erano quei cinesi, ne facevano dispetti tutti i culo, alla fine l'hanno bruciato un negozio. Brava, perché non ho detto che l'avevano fatto. Avanti, sto, Natalino. Non lo so se Natalino deve essere Magnelli. Certo, lì anche su, gli hanno bruciato un negozio, cosa hanno fatto? E hanno fatto Sarra. Lui di se l'ha tornato a Bri. Forse ha posto tutto e se l'ha tornato a Bri. Certo, le denaro non rimancano, quindi, perché c'è un giro di cose dei cinesi stessi, te lo fanno aprire, te lo mettono a posto e te lo riaprono, ecco cosa è. Solo chi su chi l'ha fatto, l'hanno ritirato va sempre, e gli hanno fatto il foglio di via, gli hanno fatto. Dicono che c'è la mafia cinese dietro, che li aiuta, però poi devi tornare i soldi. E se non li do, ti danno il gudo. Vabbè, ma io se gli do la buia, già guadagnano qualcosa. Però anche loro pensano di io ti riapro attorno al negozio, però tu a me devi durare di là, piano piano me le dorri, hai capito? Piano piano gli ritorni. Chi è? Io non ho comprato nulla, chi era? Conosci, tu sì. Alla fondo scala, sì, a me dai, ma ne manco, ma che mi dai, sì, a fondo scala. No, no, che 9.30, cosa è, come si chiama, ma non mi viene avendo, quello che stai sempre in macchina. Vai via, salta con 2000 watt, te lo faccio saltare. Ciao a tutti lì, e intanto quando hai visto segnale ti sei assustato. Sì, assustato. Ho abbassato lo squarcio e basta, tutto lì. Oh, il pinocchio. Kappa, una massa sul bacco si muovo. E io come ti sto arrivando a te? No, ma da dove stai parlando? Da sotto? Perché basso ti sento? Lo so, perché sto scendo con mezzo watt. Deve essere per quello, dove cade il pianeta. Ciao a Tore. Ecco, ora mi si arriva di segnale, mi si arriva voci. Però ora me le arriva in elenco, me le arriva in elenco. Secondo dove sei, vabbè. Già, già sei tranquillo. Ma vabbè, qui vai. C'è un garaggio, adesso. Adesso quando hai finito tutti qua ti vanno a mangiare come fanno tutti. Infatti tutte le volte che arrivo la cosa se ce l'hanno fatto, ma noi stiamo andando, ma fa scudo. Ascolta, la portamola sta scendendo, qualcosa la stiamo pescando. Sai cosa, metto nei parametri lì adesso, dove proprio dove andavo io al presidio militare lì, dopo praticamente tra la torrezza e il presidio militare, dove c'è proprio quel muretto, non so se esiste ancora il muretto, e andavo lì e prendevo certe belle orate lì di tutto, bei mormoroni di notte. Però mi hanno detto che adesso non c'è più nulla, e cosa andrà a fare? Perché di là in esca per nulla. Ma infatti noi siamo sempre lì, non è che siamo tra la torretta lì, di solito ci mettiamo dei muretti, muretto che c'è lì, quando c'è la scaccia, per comodità c'è un muretto. Però ma l'altro giorno hanno pescato, l'altro giorno qualcosa, però erano spostati verso la torretta, capito? Dalle scale della torretta andando verso sinistra, hanno camminato verso a piedi. Ho capito, sì. Dopo le gabbine, là. Sì. Vabbè, anche adesso parcheggiamo, dai, sono arrivato vicino qui a Oh, che lasciano le coppiette lì a sciupparlo. No, l'altra notte ho detto, mi pare che stavo parlando con Tonino, non mi ricordo se c'era Toro, chi c'era. Però si era avvicinato vicino un tipo, siccome da parte giù io lì sono mille cose, no? Un tipo con un pitbull, si è avvicinato allo sportello, e gli sta cosa vuoi, deve essere, siccome sono delle ville di vicino, magari stavo già pensando, quindi mi è anche malintenzionato, ma un cane enorme, ha detto bobo. E cosa ti ha detto? Mi ha guardato dentro la macchina, poi gli ha detto, non so se non sto parlando al microfono, andate, stavo già pensando, c'era la questura, che cazzo, ha detto la bella, e se ne è andato. Ho pigliato e mi sono spostato un pochettino, perché di vicino magari, sai, mi sono risvegliato, c'è anche un cancello come c'è, questo cane, e intanto la posta frequentata ci dà pure. Ma tu entra al parcheggio delle Quercie, lì lo disturba nessuno, è sempre aperto. Io entravo lì, ho fatto il 10 anche con Londra lì, da lì, un'estate, dalla macchina, con Londra, c'ho anche la QSL. Sì, ma io mi sono già passato, da lì sono passato. Però se tu stavi ancora lì, c'è uno spiazzo grande, no? Non c'è una volta che c'è una volta, non c'è una volta che c'è una volta, non c'è una volta che c'è una volta, e lì, se c'è una volta che ti umiliarebbe al ladro o qualcuno che vuole sequestrare e ti chiamava la polizia. E io, vabbè, già sei in regola, non è che l'apparato già è omologato quello che c'ha in macchina. Guarda, dice deve essere scritto chi è dietro, è il numero. C'era l'omologazione che non vale più, ci deve essere scritto chi è per essere omologato adesso. Sì, ma c'è anche quello che ho a casa, lo dite? Mi volevo quello che ho a casa, lo dite? Sì, quello che ho a casa, lo dite? Sì, quello che ho a Sì, guarda, non c'è da trovi qualcuno che ha avuto il baracchino, già te lo controllo. Poi se ti ferma la polizia postale, vabbè, è difficile, ma poi basta che non disturbi a nessuno, non ti ferma. Una volta in giro sempre, questo è il furgone, al suo posto, proviamo con l'antennone enorme, ma quella andava soltanto a giocare agli amatori, gente che aveva apparecchiato le parate, gente che si scannava comunque, allora avevamo le mie reti, ci rivolgiamo da stazionare, allora chiaro che per le balle delle televisioni andavamo all'opera. E anche a Porto Torre io li ho visti con radio goniometro, praticamente sono andati sotto una radio privata che c'era. Sì, è stato pronto, soprattutto queste cose qua, per vedere se c'è un e poi controllo anche tutto il radio. Anche se le apparecchiature moderne adesso sono più sono un po' molto migliori, prima stavano casino, ma si sentivano anche le percettori. Sì, Navacco adesso qualche cosa, quando passavo in macchina e parlavo si accendeva l'allarme di Navacco in via di Umberto. Ah, una volta andando a Russia, quando qua c'è il trucco, è andata, è una zippa, sono stata da giù, su me, andiamo a te ragazzo, chi si vedia e tutti, ragazzo, che si muove, che non si comprende la ruta, era Edo. Ma chi era l'elettronica? È quello di Bancali? Sì, Bancali, senza fare il capitano, andiamo a te. Sì, era un amico, ci vediamo, ci stavamo, siamo un'azienda che voleva ricordo sì tanto tempo fa, ma io già usai che tu bisogno, io mi ricordo ancora che avevi da Colibri la 127, fatti un conto. Invece Agostino c'aveva 127 in blu con quell'antennone 2,75 con quel mollone grande, te lo ricordi? Sì, aveva un piccolo. Sparito. Gianni, ci risentiamo le prossime. E per giunta? Ehi, a te, ciao. No, non ti ho capito perché ce ne stava dando dottore. Ciao dottore, buona serata, vai. Ciao, sto dicendo che quando è morto non so neanche riuscito, non è che non lo sapere, ma andare al cimitero, prima l'ho fatta al cimitero a chiedere dopo la mano, ma c'è la moglie, se l'ha portata a casa nel cimitero. Sì, l'ha fatto cremare. No, io sono andato anche al funerale, l'hanno fatto a San Vincenzo il funerale. Io non lo so più, non lo sai che all'ultima con un fratello che non si è frequentato, ma tutto, guarda. E stavamo sempre a cena. Siamo a cena con... quando era prima, quando era con la prima moglie. E poi anche con la seconda. Agostino si chiamava Santino, ma non si chiama Santino, si chiamava Santino ed era nato il 1 novembre come me, nel 54, tutti e due, stesso giorno, stesso anno. Tu pensa che io l'avevo trovata la cavalcata con la moglie e ho detto, beh Agostino, domani al lavoro. No, già, sono in pensione già 2 mesi, adesso sì che non ne ho più di problemi di alzarmi la mattina presto, curarete, non sono goduta molto con la pensione. Adesso adesso di appesarsi per chi tu li vabbia male, perché tu lo sai una cosa, quando ho conosciuto lui, lui trasportava esplosivi, aveva un po' caro, trasportava esplosivi, e esplosivi si trasportano. Quattro cinque mattino di altre abbocate e lui non le poteva raggiungere verso il andato da una società, ma stavamo sempre assieme. Quando andava in giro a portare anche la roba per lavoro, io andavo a fare compagnia, sempre in cambio per uscire. Io lo so, io Agostino l'ho conosco tanti anni. Lo parcheggiava a Viale Umberto il camion degli esplosivi, o lì oppure la metteva a San Francesco, proprio dove c'è quel muraglione della chiesa lì, dall'altra parte, lo metteva lì. Me lo ricordo, poverino. Ma te se lo vede il culo, poi ci sono state fotografie perché c'è una versione con la ragazza, anche da poco stavo guardando le fotografie di quando abbiamo fatto l'esercitazione di protezione civile, perché noi eravamo usciti al servo, al servizio di Salario, e con i militari, abbiamo fatto l'esercitazione con i militari, e questa è una fotografia di Gesù, ancora di giovane. Ma si ricorda anche di Babbo. Come? Ti ricordi anche di mio padre, Pierpaolo, era sempre acceso un bel di anni fa. No, Antonio, non c'entra nulla quel periodo. Mio padre era acceso, il SER era un'altra cosa. Era servizio emergenza radio, tuo padre non c'era. Era il periodo che c'era, come si chiama? Non mi viene in un uomo. E vabbè, comunque, quello che lavorava a Ferruvicchio, come si chiamava? Giovanni La Freccia è entrato col SER, siamo andati assieme, io sono andato sempre Giovanni La Freccia. Ma non dimentichiamo una cosa, che il CISO Massassari abbiamo portato noi, io, Agostino, Giancarlo Solina, se buonanima pure lui. Noi prima eravamo al CISO ad Alghero, mi pare nel 1980, eravamo con Varraffa, che è molto bruetto. E poi abbiamo portato il CISO Massassari, abbiamo portato noi. Quando hanno fatto il CISO Massassari, allora Agostino era il primo Giancarlo quando hanno chiesto, poi Varraffa ha chiesto a me, poi Agostino. Io avevo la tessera numero 2. Sì, sì. Però servizio ambulanza, le ho fatto i corsi io al CISO. Le ho fatto i corsi io alla Croce Blu, sono venuti perché un giorno ci siamo trovati e ne abbiamo parlato e Agostino mi ha detto perché non facciamo una cosa, noi ci devono dare un'ambulanza, però non la sappiamo usare, ce la devono dare da Roma, il 238 esattamente. E noi abbiamo fatto i corsi noi, capito? Compreso io. E hanno imparato con me perché sono uscito io con loro le prime volte, eccetera. La prima volta che siamo usciti abbiamo caricato tre in overdose, tutti vestiti bene in abito e cose, doveva essere qualche festa, qualche cosa, tutti e tre in overdose. Vai che ti sei fermata l'ambulanza all'ospedale, non riuscivi più a partire e te l'ho messa in moto io. Attenzione, che io già prima di loro avevamo fatto CISOM con Marco Salis ed eravamo proprio i primi, eravamo vicino a Via Napoli, una traversa lì di Via Napoli, proprio quando siamo arrivati a Roma, e avevamo una Opel, ambulanza Opel di quelle basse, proprio la prima ambulanza che è arrivata, che ce l'avano data da tempio, perché quando loro hanno formato il CISOM lì, siccome in realtà era successo questo, che Marco non andava d'accordo con, cioè lui voleva fare tutto lui, non voleva nulla di fare, quando è arrivato Giancarlo è arrivato Agostino e sembrava quasi che, allora siamo separati, Marco è rimasto con noi su e loro sono scesi giù, noi siamo arrivati su in Via Napoli, ma proprio la prima sede che abbiamo fatto noi su in Via Ena, a Napoli, una traversa di Via Napoli, e avevamo un'ambulanza che poi era successo quasi non ero ritirato, perché qui avevo scoperto che non era un'ambulanza omologata, che erano uscite di più cose perché quelle non si potevano più usare, che erano basse. Sto ricordando una volta che siamo andati a prendere un trovato usato a Perfidia che era ingessato, non mi ricordo di aver detto l'ambulanza. Ma ma qual era quello che aveva le barelle tipo Far West? Ho capito qual era. E niente, già so tutta la storia io del ciso come è nato e tutto quanto, che eravate in via Napoli. A Marco Sale si lucevava le pellicce di soprannome, me lo ricordo bene. Era proprio Marco, era un po' guardo uriato, era molto bugiardo, se andate a vedere i palizzetti, un personaggio, un figlio, un conto, là, facevamo quanto, ma si buttavano all'associazione, si buttavano a Natale, a Pacca, si buttavano a panettone, così così, e tu li pigliava e faceva il giro, e andava al comune, e andava ai vigili, e andava a città, a portare il panettone, cosa, omaggio, e beh c'erano un panettone, la gente che lo facevano la soluzione, lasciavamo perdere, e Marco era un po' carino quello di piano. Infatti io ho attaccato con Marco, proprio perché un giorno, controllando il libretto, no, era una Opel tipo se ci vengo meno, le prime ambulanze che facevano, figurati che una volta di questo tipo ingessato e aveva il braccio sollevato così e il busto e non c'entrava la barella in macchina, ha giovato che avevano segato il braccio ma con il suo vento, e infatti poi quelli hanno messo fuori il giorno, sono state considerate pure legge. Io te lo ricordi quando ti sei fermata all'ospedale già, l'ambulanza, che c'avevo il caso io nella mia e l'avevamo attaccata per farla partire, non partiva più, era partita la batteria. Chi ha parlato? Io sono un natalino. Mi hai sopravvolato, Morello. Te lo ricordi quando si è fermata l'ambulanza lì, che non voleva più partire, perché c'era la batteria andata? Gianni, ho detto, se te lo ricordi quando ve l'ho messa in moto io con i cavi, l'ambulanza all'ospedale che non voleva partire perché c'era la batteria a terra. Già me lo ricordo, sì. Che ci aveva dato una mano quello che adesso è nel 118 all'ospedale, come si chiama, quello che faceva il meccanico. Vabbè, ma i cavi li avevo forniti io, ce li avevo io in ambulanza i cavi per fare la partita, avevamo attaccato i cavi dell'ambulanza mia alla vostra per partire. Sono cose che possono succedere, tante volte anche lampeggianti consumano un po' di batteria, capito? Se tu fai un incidente dovresti lasciarla in moto quando c'è lampeggianti accesi, però non lo fai perché entra tutto il fumo dentro, cazzo, e poi il malato si respira tutto il fumo. Vabbè. Io avevo i cavi nella macchina, allora, aspetta, già c'ho i cavi, la mettiamo in moto. Tu da tutto e vedrai a poner in moto. A chi va via di tutto acceso, voi l'ambulanza spenta e quindi non passiamo più. Allora, quell'ambulanza aveva questo difetto, che se accendevi l'aria condizionata ti buttava giù la batteria. Siccome non lo sapevo, io non me l'avevano detto, e avevo acceso l'aria condizionata la d'estate e praticamente ha buttato giù la batteria per quello. Poi come l'ho spenta l'ha buttato subito in moto. E da voi giù i cavi gliel'avevano buttato in moto, lui stessi. Vabbè, poi c'è successo un'altra volta al monte, in un'urgenza. Praticamente questa ragazza che stava tentando il suicidio si è tagliato le vene, la dovevo portare all'ospedale, andavo lì in moto e l'ambulanza non partiva, cioè ci avevano dovuto spingere per metterla in moto, un casino qua. Me lo posso immaginare. E anche un casotto quando non va a batteria manna, arriva una batteria per da Ambrusa nell'ambulanza, con tutti i servizi che ha, giustamente, forse era sottodimensionata. E infatti gliel'ho detto, quando sono tornato ho detto io questa ambulanza non la prendo più, prendo altra, perché questa qua mi ha fatto fare brutte figure, c'erano carabinieri, c'era gente, c'era una macchina, una pattuglia della polizia, una pattuglia dei carabinieri, questa ragazza ha tentato il suicidio, non era manco, l'abbiamo fasciata, l'abbiamo messo una fascia stretta, però stava perdendo sangue. E te credo. Sono figuracce, ti può succedere però, perché sono sempre macchine, non è che che ci puoi fare nulla se si rovinano. Sì, infatti. No, ma sicuramente era troppo dimensionata la batteria per quella macchina. No, la batteria aveva, era proprio da cambiare, perché finché tu la trattavi normalmente ce la faceva, poi come attaccavi l'aria condizionata la buttava giù. Sì, magari pulire più manna, lui. Oltre che se è sottodimensionata. Non è giusto che quando tu accendi l'aria condizionata non parte più. E non può buttarla giù così la batteria. Sì, l'abbiamo cambiata direttamente, il giorno dopo l'ha portata all'elettrico e tu l'hai fatta cambiare. Non si può usare una macchina che fa delle urgenze e poterti vada a partire non parte, cazzo, cioè fa figuracce. Oltre che passi casini, se ti vuole paziente perché non è partita l'ambulanza, passi casini, perché la colpa è la tua, c'è poco da fare, devi fare la manutenzione. Molte volte si pensava più a comprare garze, queste cose qua, piuttosto che magari fare la manutenzione dell'ambulanza, che era la cosa principale. E infatti paghi così, uno di là, sempre di là. E i natali già ne entravano soldi, Guarda che c'è stato un periodo che eravamo più forti a Sassari e poi siamo andate come i funghi, vabbè, le ambulanze, però c'era un periodo che noi lavoravamo ma non bene di più, non facevamo anche a rientrare, dovevamo fare la bella cosa, so cosa, scaricavamo la malata, poi ci chiamavano dove siete? Siamo a pronto soccorso, dai rifate la barella che c'è un'urgenza da fare, e partivamo direttamente dall'ospedale. Sì, infatti è così, è un macello. Una volta sono entrato alle 8 a fare trasporti, vabbè trasporti, urgenze, tutto, ero di turno, ma con i trasporti ho fatto dalle 8 di mattina, ma ne sono andato alle 7 di sera senza mangiare in manco, tutto di continuo, sempre trasporti, alla fine poi quando l'ho chiamato gli abbiamo detto che l'ambulanza era fuori per un'urgenza e dice quando rientra e non lo sappiamo perché è fuori e niente, me ne sono andato, ero grimbato, povero Vasubi, e poi quando trovi gente, cazzo che lui, mamma mia, ci sono certi pazienti che sono pesanti, ma dove mi sta portando? Io non ci voglio andare lì. E lui è. Noi l'abbiamo sopportato, c'era questo notaio in piazza Purino, lo ricorderò sempre, in piena estate, e praticamente voleva che, con questo che aveva la broncopolmonite, e voleva che aprissimo finestrini, che attaccassimo l'aria condizionata, ci ha preso a voci, insomma, cioè gli abbiamo detto guarda che a lei fa male, l'aria le fa male, se facciamo corrente o mettiamo l'aria condizionata non li fa bene i polmoni, voi dovete fare ciò che vi dico io, gli ho detto, lei comanda a casa sua, non in casa mia, questa qui è casa mia. Pure ne ha sopportato tutti i colori. Eccomi, stazione 2. Già ti sentiamo bene, Antonio, se no te l'avremmo detto. Ti sentiamo forte e chiaro. Poi ho commutato, sono passato qua. Già si guadagna in ambulanza, non è vero che non si guadagna. Se ci sei fuori già ci sono i soldi. E a voglia, quando fai trasporti SL te li pagano. Te li pagheranno in ritardo dopo 3 mesi, però ti mandano anche 30.000 euro, 40.000 euro. È così, capite, scioltezza. E poi anche poi guadagni molto da anche dei trasporti normali. Soprattutto adesso ci sono le tariffe, ci sono. Non ne fate di più trasporti così, no? Se lo vuoi così, se no. Ciao. Già lo so, sì. Già lo so, so tutto. Adesso sono nato come funghi, lo sai perché? Perché hanno capito che c'è il guadagno. e allora sono nate come funghi. Ce ne sono Italia Emergenza, ce ne sono poche che non avevo mai visto, non mai conosciuto io. No, Italia Emergenza è la cooperativa proprio, lì c'è lo stipendio, è la cooperativa ospedale. Ah, dentro l'ospedale lavora Italia Emergenza? È la cooperativa che fa i trasporti in ospedale, sono tutti stipendiati, cercate di verme. Ma quella che c'era prima non ha perso l'appalto? Sì, quella che c'era prima, siriana, sì, ha perso l'appalto. E già Franco ci sta lavorando, mi sembra, Italia Emergenza, Italia Emergenza. Lo stipendio, cioè, contributi pagati, IRP, tutto. No, Gianfranco la croce.